90. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di quello che sta capitando anche sui mercati valutari, mi riferisco alla sterlina, perché sullo sfondo non c'è speculazione ma c'è e ci sono ipotesi di una settimana difficile per Theresa May. C'è stato un articolo del Sunday Times che sottolineava come sia arrivata a 40 la quota dei deputati conservatori che vorrebbero sfiduciare la Premier. Mancano solo 8 deputati per avviare il meccanismo delle elezioni interne al partito. Questo per quello che riguarda la parte della Gran Bretagna. Citeremo anche il Fondo Monetario Internazionale che si occupa oggi di Italia, sia sul fronte deficit debito ma anche per quello che riguarda la situazione delle sofferenze bancarie, definendo incoraggiante il numero di vendite, le cessioni di NPL, di sofferenze bancarie, ma invita l'Italia ad aumentare gli sforzi anticorruzione. Devo dire che la raccomandazione è arrivata a un gruppo di paesi, insomma così, oltre all'Italia c'è Bulgaria, Grecia, Romania e Ucraina. E poi dice il Fondo Monetario, l'Italia approfitti della ripresa per ridurre il debito. Conferma il Fondo Monetario che quest'anno cresceremo dell'1,5%, mentre l'anno prossimo un po' di meno, l'1,1%, e una riduzione anche nel 2019, lo 0,9%. Di questo parleremo, come del debutto nuovo BTP Italia, che è tornato sul mercato, 12ª emissione, e anche di questo parleremo, visto che oggi a Radio 24 ospite di Due di Denari, quindi con Deborah Rosciani e Mauro Meazza, la responsabile della direzione del debito pubblico del Ministero dell'Economia e Finanze, Maria Cannata, ha anche annunciato che vi sarà una nuova emissione di BTP a 30 anni. E questo perché comunque grazie alla BCE, grazie anche alla BCE, se si sta registrando comunque un atteggiamento molto favorevole e positivo per il collocamento di debito italiano sul mercato. Ancora, per quello che riguarda le pensioni, c'è un'apertura del governo ai sindacati sulla possibilità di bloccare l'incremento dell'età pensionabile nel 2019 per chi svolge lavori gravosi. Ci occuperemo anche, oltre che della Gran Bretagna, di questi temi, della vicenda Panama Papers, perché riguarda, come avevamo già anticipato, ci sono anche i nomi degli italiani. C'è un caso su cui è intervenuto lo stesso ministro della difesa Pinotti, mi riferisco alla Vetro Ciset, perché oltre che essere partecipata in piccola quota, 1,5%, da Leonardo, ex Finmeccanica, Vetro Ciset ha un'importanza strategica per il settore in cui opera. Tra l'altro, proprio oggi, sarà una coincidenza, si è saputo che il gruppo Vetro Ciset è passato sotto il controllo dell'imprenditore abruzzese Tonino Di Murro, che ne ha rilevato il 98,5% attraverso una società di diritto olandese che si chiama Croce International. Però il ministro Pinotti, dicevo, ha detto che il governo potrà usare la Golden Power perché l'azienda informatica ha contratti di importanza strategica nel paese, opera infatti nel settore civile ma anche della difesa, ed è emerso che Vetro Ciset utilizzava, è nella lista dei Paradise Papers, assieme ad altri nomi celebri, mi riferisco a Bonomi, ma non solo, anche i Legionari di Cristo sono in questa lista, e poi gli eredi di Nino Rovelli, qualcuno ricorderà la vicenda di Misir, il gruppo finito in bancarotta nel 79, E questo dopo le indiscrezioni delle della settimana scorsa, in cui erano emessi i nomi della regina Elisabetta, della cantante Madonna, di Bono, degli U2. Per quello che riguarda invece, oltre che la vicenda di Panama Papers, una vicenda virtuosa, faccio notare che oggi c'è stato l'incontro e poi la conferenza stampa del ministro Franceschini dopo l'incontro con i direttori dei musei autonomi nati dalla riforma, quella che fu contestata da alcuni sindacati interni ai musei, ma che in realtà alcuni dicono arrivano gli stranieri a fare direttore dei musei. Non è sempre vero, molti sono italiani, alcuni sono stranieri. Giustamente, quando si fa un concorso si dice a livello europeo che vengono i migliori, quelli più in grado di valorizzare i musei. A me sembra che al di là del passaporto dei direttori dei musei, la riforma stia avendo un discreto successo, perché sono 50 milioni di euro in più gli incassi tra il 2013 e il 2016, sono più 40%, e il trend è ancora in crescita nel 2017, più 13,5%. I visitatori sono passati da 38 milioni nel 2013 a 45 milioni e mezzo nel 2016, e si punta a raggiungere 50 milioni di visitatori nel 2017. Dice appunto il ministro Franceschini, la riforma sta dando i suoi effetti e ne parleremo più avanti. La borsa, allora, meno 0,54% in questo momento Milano, meno 0,75% Parigi, meno 0,35% Francoforte, meno 0,23% Londra, Dow Jones invariato. Tra i titoli segnalo in positivo Mediaset, che guadagna infatti l'1,34%, Ferrari più 1, Biper Banca più 0,70, Moncler mezzo punto percentuale come Luxottica e Banco BPM. E fronte opposto è Leonardo di nuovo, ne riparleremo. Leonardo ex Finmeccanica continua a calare anche oggi, meno 4,16%, Telecom Italia meno 3,80, Unipol sai meno 2 come Hughes Saint Porté. L'1,80 lo perde Fineco, Unipol meno 1,60 come Ubi, 1,5 il caro di Brembo, l'1,30 quello di Buzzi, Unicem Generali e Tenaris, Intesa San Paolo meno 1% come Atlantia. Ancora, per quello che riguarda la borsa, poi daremo anche come sempre i migliori e peggiori della seduta. Il numero invece per i vostri sms resta 349-238-6666 per sms, WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta attraverso Facebook. Volete sapere, vedo alcuni di voi, se tra i migliori e peggiori c'è qualcuno dei titoli di queste ultime sedute? No. MNC meno 9,9, la Doria meno 8,90, Digital Brothers meno 7,80 come peggiori, K-Group meno più 9,40, Fedon più 5,50, Fiera Milano più 5,40. No, non ci sono casi particolari oggi in borsa nei migliori e peggiori della seduta, ma dopo quello che è successo la settimana scorsa col Creato Valtellinese, devo dire anche con il gruppo ex Meccanica Leonardo, era giusto chiederlo. Andiamo avanti con le notizie in breve. Visto che citavo la sterlina, che sarà il prossimo tema d'approfondimento, segnalo però anche il rapporto euro su dollaro, quota 1,16 e 57. La sterlina sull'euro è a 0,88. Dicevamo del Fondo Monetario Internazionale, ma non solo, perché l'FMI dice l'Italia approfitti di questa ripresa che è diffusa in tutta Europa. Giustamente uno ascoltatore mi dice un caso di borsa fu anche Astaldi, ha ragione, Credito Valtellinese, Astaldi e poi Leonardo ex Finmeccanica. Ma torniamo al Fondo Monetario Internazionale. Dicevo, la ripresa economica accelera, l'economia avanzata del vecchio continente con un elevato debito pubblico dovrebbero approfittare di questo momento positivo per ridurlo senza mettere a rischio la crescita. Cita i casi di Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, il Fondo Monetario Internazionale, e dice che il debito italiano quest'anno sarà al 133% del PIL. Per quello che riguarda l'anno prossimo 131, 128 nel 2019. Per quello che riguarda la disoccupazione calerà, ma poco, all'11,4% nel 2017, questo sempre secondo le stime del Fondo Monetario internazionale. Il deficit quest'anno è stimato al 2,2% sul PIL, mentre scenderà all'1,3% nel 2018 e allo 0,3% nel 2019. Allora, qualcuno mi sta scrivendo, ma non si occupa dell'effetto economico del... Sì, allora, intanto non voglio portare sfiga, mi riferisco a Italia-Svezia di questa sera. Allora, avremo servizi anche sull'impatto economico del... o l'impatto economico negativo se non entri ai mondiali. Però insomma io sono scaramantico. Siamo tutti in attesa, chi ama il calcio della parte di questa sera, poi uno può anche commentare e dire certo che arrivare con questa attesa è già in parte una sconfitta, intanto iniziamo a vincere, poi faremo il bilancio dopo. Certo che c'è un impatto economico, 100 milioni stimati almeno per quello che riguarda l'effetto del non andare ai mondiali di calcio, che vanno poi a pesare sulle casse della FIGC e quindi anche del CONI. Ma andiamo avanti, dicevo, con il debito italiano. Maria Cannata, responsabile della direzione del debito pubblico, le sto chiesto oggi durante il programma 2 di Denari se si aspetta tensioni sui tassi di interesse, quando inizierà a ridursi e visto che in prospettiva dovrà ridursi il quantitative easing di Mario Draghi della BCE, questa è la risposta. Io non credo che ci sia un grande effetto, almeno fino a tutto il periodo in cui la Banca Centrale Europea si è impegnata a prolungare la sua presenza. È vero che ridurrà gli acquisti netti, però è anche vero che c'è l'impegno a rinnovare quello che scade del loro portafoglio, e quindi la presenza della BCE continuerà ad essere abbastanza cospicua sul mercato l'anno prossimo. Io non mi aspetto grandi movimenti di tassi. Peraltro la cosa più importante è la gradualità con cui gli eventuali interventi di riduzione o interruzione anche degli acquisti e rialzo dei tassi verranno adottati. In questo mi sembra che la Banca Centrale Europea abbia adottato una politica quanto mai attenta a come le sue decisioni possono essere recepite dal mercato, che infatti ha accolto molto bene le ultime comunicazioni. E poi sempre a Maria Cannata è stato chiesto un commento sul collocamento di oggi BTP Italia, che registrava già a metà giornata ordini per poco più di un miliardo fino al 15 novembre. Si può sottoscrivere BTP Italia a meno che non venga anticipata la chiusura. L'emissione ha ancora scadenza 6 anni, come quella dello scorso maggio che collocò 8 miliardi di debito. Offre una cedola reale annua minima garantita pari allo 0,25%. Il 16 novembre poi toccherà agli investitori istituzionali e al termine verrà resa nota la cedola definitiva. Poi per i risparmiatori individuali che conserveranno il titolo fino a scadenza, quindi per 6 anni, è previsto un premio fedeltà, chiamiamolo così, del 4 per 1000 al momento del rimborso. Questo commento sempre dal responsabile della direzione del debito pubblico. Avvicinarsi a uno strumento con un orizzonte medio-lungo, come può essere il BTP Italia o anche strumenti un pochino più lunghi, può avere un senso, perché oramai non si sa quando i tassi riprenderanno la normalità precedente alla crisi. Forse ci sarà un nuovo livello anche di stabilità più basso rispetto a quella che era diciamo tradizionalmente il livello dei tassi precedenti. Quindi da questo punto di vista il BTP Italia è un investimento in questo contesto di tassi bassi assolutamente vincente. Ancor di più se si consolida la crescita, che fortunatamente stiamo vedendo sta diventando sempre più solida e che dovrebbe portare nel tempo anche a un po' di incremento di ulteriore inflazione. Oh. Dunque, mi scrive un ascoltatore: ti vedo rassicurato che c'è un poco di ripresa, ma ti rendi conto che sono 10 anni di crisi? Guardi, me ne rendo conto benissimo, perché purtroppo è dal 2008 che raccontiamo sta crisi, che, come ricordava il Centro Studi Confindustria, è stata per alcuni versi anche peggiore dell'effetto bellico, chiaramente al netto del dramma umano, perché in realtà la ripresa fu più forte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, se si guarda solo l'aspetto economico, i tempi che ci vogliono a tornare a livello pre-crisi è anche peggio di quello che avvenne con il secondo conflitto bellico. Chiaramente, ripeto, solo se si guarda l'aspetto economico, non quello umano e delle centinaia di migliaia di morti in Italia, sia civili che militari. Però qualcuno mi dice: beh, sei contento? No, non sono contento, però se per un anno, dopo tutti questi anni, riusciamo a crescere in maniera un pochino più solida grazie alla ripresa comune dell'area euro, grazie alle nostre imprese che si sono messe a esportare, sono collocate bene sui mercati, ma perché devo essere scontento? È ovvio che non basta un 1,5%. Faccio anche notare, e questo è un tema che spesso non si vuole affrontare, che abbiamo un problema enorme di disoccupazione giovanile soprattutto, ma c'è anche un problema di quello che si chiama mismatching, cioè mancato incontro tra domanda e offerta. Ormai iniziano ad essere tante le imprese che ce lo segnalano, il che vuol dire che abbiamo sì un problema di imprese che hanno chiuso, il 25% delle imprese, diciamo, come attività hanno chiuso e quant'altro, ma quelle che vorrebbero assumere fanno fatica a trovare operai specializzati, tecnici specializzati, periti specializzati e così via. L'Istat oggi segnala che tra le imprese che cercano personale, il numero di posti vacanti è al massimo, è il più alto da almeno il 2012. Il tasso del terzo trimestre infatti è stato a pari all'1% da quando è iniziata la serie storica, dal 2010 è il livello più alto. La platea di riferimento comprende il settore dell'industria e dei servizi con almeno 10 dipendenti. E che comunque sia un'economia in ripresa, ma con una ripresa fragile, lo ha ricordato oggi anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, intervenuto all'appuntamento del Comitato Leonardo qui a Milano. Si parlava dell'effetto positivo dell'industria 4.0. Faccio notare che anche nella battaglia politica, nella battaglia, insomma, preelettorale, si criticano tanti provvedimenti economici. Non ho mai sentito, per fortuna, criticare il provvedimento 4.0, perché sono innegabili gli effetti virtuosi. I preammortamenti e superammortamenti hanno portato le imprese che avevano intenzione di investire per innovare e digitalizzare l'impresa a farlo, con risultati di tutto rilievo. Comunque, Boccia sia sulla ripresa in atto sia sulla manovra. Una ripresa reale, nel senso che abbiamo cambiato direzione di marcia, ma l'economia è ancora fragile perché la polarizzazione è ancora alta. Serve continuare quel programma, cioè una dotazione infrastrutturale all'altezza di questo paese, che veda questo paese centrale tra Europa e Mediterraneo e non periferia d'Europa. Serve un'attenzione al mondo del lavoro e serve una maggiore competitività per le imprese. Serve innanzitutto non smontare le riforme fatte, per esempio sulla legge di bilancio, evitare che tutti questi emendamenti siano solo legati, diciamo, un po' a dimensioni categoriali e non a un'idea di paese del futuro. Le risorse non sono rilevanti, già è tanto che non hanno smontato le riforme precedenti. Avevamo aspettative basse, l'importante, come dire, è capire e contestualizzare. Dobbiamo fare i conti con la sostenibilità del debito pubblico del Paese. Purtroppo non possiamo fare proposte che riguardano aspetti categoriali e che però prescindono da questo elemento. Devo dire che questa legge di bilancio, se sarà approvata così, è nelle aspettative di chi sapeva che non c'erano grandi margini di manovra. Poi ci sarà un piano di legislatura che riguarderà i partiti che si candidano a governare il paese, sono due cose diverse. Allora, vedo che alcuni scrivono al 349-238-6666, guardi che difficilmente domande e offerte di lavoro si incontrano perfettamente, ho capito, però questo è un periodo in cui abbiamo altissimi tassi di disoccupazione giovanile. Mi scrivono degli imprenditori in provincia di Bologna, non si trovano più tornitori, fresatori, rettificatori. Altri mi scrivono, ho capito, però dipende quanto offrono, vacci tu a lavorare per 1200 euro al mese. Altri dicono: attenzione, probabilmente non si trovano più perché sono all'estero dove pagano meglio. Allora, questo si chiama mercato del lavoro. Se un'impresa non ne trova 1200 euro perché se ne sono andati all'estero, è giusto che offra di più, nel senso che se vuole mantenere il suo apparato produttivo ha bisogno anche di lavoratori specializzati, e quindi se inizia a offrire di più probabilmente qualcuno può rientrare o non andarsene all'estero. Quello che invece io non condivido per nulla è quando vedo scritto vacci tu a lavorare a 1200 euro, nel senso che sono d'accordissimo che 1200 euro non sia un gran salario, ma se tu sei a casa e non hai lavoro, meglio 1200 euro che niente. Almeno su questo possiamo essere d'accordo o no? Uno sta a casa finché non gli viene offerto il salario che ritiene ottimale. Vabbè, un'ultima nota di boccia del presidente Confindustria sugli NPL. Sapete la posizione di chi vi parla sulla follia della NUI, che vuole mettere nuove regole, si chiama addendum, nel momento in cui lo stesso Fondo Monetario Internazionale riconosce che l'Italia sta facendo uno sforzo incoraggiante nel collocare, nel cedere le banche, nel cedere i non performing loans, le sofferenze bancarie che comunque sono calate. Però dicevo, Boccia così ha commentato l'idea di avere regole ancora più stringenti dal 1 gennaio 2018. Sull'addendum della BCE, la Federazione Bancaria Europea ha detto che manca una valutazione sull'impatto sul credito delle piccole e medie imprese. Cosa ne pensi? Hanno perfettamente ragione, manca non solo una valutazione sull'impatto, ma l'errore da non fare è che si fanno regole che prescindono dagli impatti sugli effetti sull'economia reale e sono antitetiche alla politica monetaria espansiva della BCE. Ci auguriamo che non prevalga l'anima burocratica, ma prevalga una idea di politica economica molto chiara e anche di coerenza. Andiamo adesso a Londra, anche se qualcuno continua a scrivere un giorno finirà questa favola che non si trovano lavori qualificati, pagassero stipendi migliori. Ma guardi che il problema è che da quello che capisco io non ci sono proprio le qualifiche. Poi uno può dire giustamente alcuni se ne sono andati, i tornitori sono andati in Germania perché lì ti offrono molto di più. Va bene, fosse così sarebbe solo una logica di mercato, dovresti iniziare a aumentare gli stipendi dei tornitori, per esempio dei fresatori in Italia. Da quello che noi vediamo però mancano proprio le figure professionali, perché è chiaro che ti posso dire ti guadagni un po' di più in Germania però devi trasferirti lì, o un po' di meno in Italia magari, ma sei vicino a casa. Il problema è che mancano le figure professionali, perché è inutile girarci attorno. C'è anche il problema delle scuole che hanno fatto i ragazzi in questi anni, c'è il problema delle lauree brevi in scienza della comunicazione, per citare il caso più scandaloso, c'è il problema del fatto che qua l'idea di fare un lavoro che ti porti poi in fabbrica è quasi umiliante. Oggi il presidente Boccia citava una battuta che io trovo infatti abbastanza esemplare di un certo clima e cultura che si respira in alcune famiglie italiane, quando tu dici a tuo figlio: se non studi ti mando a lavorare. Se studi e sei bravo riuscirai a lavorare, mica è una punizione andare a lavorare, è un premio se sei bravo e sai studiare. O comunque, dai, andiamo in Gran Bretagna, dove immagino che la frase "se non studi ti mando a lavorare", visto che c'è sempre il lavoro che si fa anche in part time per mantenersi gli studi, non esista. Nicole degli Innocenti, buonasera Nicole. Buonasera. Ma non è per questo che ti abbiamo in collegamento, se mi abbassate un po' la base per favore, grazie. Vorrei capire che cosa sta succedendo alla sterlina, adesso il rapporto è a 0,88, ha avuto un minimo a 0,88,7. Ma in realtà non è tanto speculazione finanziaria, è il rischio che la fronda verso il governo di Theresa May diventi talmente consistente da portare a un voto interno di sfiducia dentro i conservatori? Esatto, sì, la sterlina è scesa oggi soprattutto sull'euro proprio per i timori che cada il governo May. La May è in una posizione di grande debolezza da lungo tempo, ma appunto ieri è emersa questa lista di 40 deputati conservatori pronti a firmare una mozione di sfiducia, e ne mancano 8 al numero, il numero minimo necessario è 48, e quindi è possibile, diciamo, è più possibile un voto di sfiducia in tempi brevi, che ovviamente la May potrebbe perdere. Quindi questa ulteriore colpo alla posizione della May ha indebolito oggi la sterlina. Ma che cosa sta capitando in Gran Bretagna? Perché al di là, insomma, della sensazione netta, lo dico, insomma, che non dico ci sia stato un ripensamento, ma che forse abbiano fatto un salto nel buio. Non abbiamo ancora capito che tipo di Brexit vuole la Gran Bretagna, se la vuole hard Brexit, quindi andando in scontro totale con l'Europa. La Gran Bretagna non sembra aver capito che deve comunque saldare i conti in sospeso, parlo economici, con l'Europa, di cui faceva parte, per cui e inizia a essere preoccupata la parte che, insomma, ruota attorno più ai servizi, e in particolare ai servizi finanziari, della fuoriuscita dei grandi istituti, non solo le banche, ma a partire dalle banche. È questo mal di pancia che sta scuotendo i conservatori, o è l'idea che la May sia inadeguata nel gestire questo processo, o addirittura, come scrive qualcuno, forse vorrebbero fare un po' di retromarcia e arrivare a una Brexit così soft, quasi da annacquarne gli effetti peggiori dal punto di vista economico? Ma sia il paese che la politica, che il governo è profondamente diviso su Brexit, su quale tipo di Brexit avere. La May è così debole anche perché deve, appunto, gestire le fazioni interne al Partito Conservatore, che è spaccato a metà fra, appunto, quelli che vogliono una hard Brexit, vorrebbero proprio sbattere la porta e andarsene anche senza un accordo, come il ministro degli esteri Boris Johnson, e quelli invece che vorrebbero a tutti i costi avere un accordo, un periodo di transizione lungo di almeno 2 anni e forse anche proprio fare una marcia indietro rispetto a Brexit del tutto. Oggi il governo, appunto, per questo non si pronuncia, per questo non vanno avanti i negoziati con l'Unione Europea, che sono ormai in una fase di stallo pericolosa, dato che c'è il Consiglio Europeo fra un mese decisivo a Bruxelles. Quindi la situazione si fa sempre più surreale. Oggi c'è stata una delegazione di imprenditori europei per la prima volta da diversi paesi europei, Italia compresa, a Downing Street, ricevuti dalla May, proprio che hanno espresso la preoccupazione del mondo imprenditoriale e del mondo del business per questo stallo nei negoziati, per questa mancanza di chiarezza assoluta sulle intenzioni del governo, e hanno ribadito che le imprese sono assolutamente unite in tutta Europa, comprese la Confindustria britannica, la CBI, sono assolutamente unite nel chiedere un periodo di transizione di almeno 2 anni, proprio perché le imprese ovviamente devono prendere decisioni di investimento a medio e lungo termine, quindi hanno bisogno di chiarezza, chiarezza che per ora non c'è. Allora sì, su questo io ho la netta sensazione, Nicole, che fosse così remota la possibilità che vincessero il sì alla Brexit, che nessuno si, in un paese abituato a essere molto pragmatico, poco ideologico, e che si prepara le cose con, appunto, con molta concretezza, per la prima volta forse nessuno avesse ipotizzato la versione che poi ha vinto, cioè la Brexit. Da questo punto di vista è ipotizzabile, quanto è ipotizzabile una crisi di governo? Ma se la fronda pro-Brexit, pro-hard Brexit, continua a prendere forza come sembra in questi ultimi giorni, potrebbe esserci una sfida alla May. L'unica possibilità che non ci sia una crisi, nessuno in realtà vuole elezioni anticipate, perché il rischio molto grave, secondo i sondaggi, è che vinca Jeremy Corbyn, cioè l'oltranzista di sinistra che è leader dell'opposizione laburista. E la possibilità di un cambiamento, diciamo, facile, semplice di leader del partito conservatore è molto improbabile, perché appunto il partito è scisso in fazioni che si detestano, e c'è una è difficile che ci sia una transizione senza problemi. Quindi la forza della May sta nella sua debolezza e nei problemi che deve affrontare. Quindi è probabile che alla fine la May sopravviva, semplicemente perché nessuno vuole avere questo. Nessuno vuole prendersi il cerino. Esatto, certo. Così difficile di gestire Brexit. E dopo Brexit sicuramente verrà sostituita. Qualcuno mi chiede anche dell'Agenzia Europea del Farmaco, che deve lasciare Londra lunedì prossimo, c'è la data importante. Da quello che capiamo sono rimaste in lizza Bratislava e Milano. Purtroppo Bratislava dietro a Vienna, a Berlino, a tutti i paesi dell'Est Europa. Lo dico perché così sulla carta non dovrebbe dire Milano tutta la vita, anche per le aziende farmaceutiche presenti, italiane e non solo, e multinazionali già presenti a Milano e in Lombardia. Però a livello politico vediamo chi si riesce a portare dietro l'Italia, e il rischio è che i paesi dell'Est Europa si coalizzino, diciamo, tutti su su Bratislava. Grazie intanto a Nicole degli Innocenti. Arrivederci, grazie. Ancora sui lavori, a qualcuno dà fastidio che gli imprenditori denunciano di non riuscire a trovare alcuni lavori specializzati. Può essere colpa di quello che offrono, ci mancherebbe, ma ripeto, se fosse solo così basterebbe che uno iniziasse a soffrire un po' di più per trovare questi lavoratori. C'è anche una carenza nella formazione, e mi scrivono alcuni che fanno, dicono, ma giovani architetti, gli ingegneri e altri professionisti che ricevono stipendi da fame e aprono le partite, e sono obbligati ad aprire le partite IVA, appunto. Non è che gli altri stipendi siano tutti schiettati verso l'altro, verso l'alto, scusatemi, e solo al fresatore o al tornitore vengono offerti i famosi 1200 euro che citano alcuni ascoltatori, che poi non so neanche se siano veri 1200. Il problema è che forse culturalmente fa più figo dire faccio l'architetto a 1200 in partita IVA che non faccio il fresatore assunto dentro un'impresa. Chiamiamole anche così, dai, chiamiamo le cose come stanno. Andiamo sul meteo, pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Let myself 17:46 minuti, devo già andare quasi sul traffico, vedo ancora molti messaggi sul tema, faremo una puntata apposita. Giusto chiedere che anche gli imprenditori si facciano carico della formazione, questo sì, in un rapporto ancora più stretto tra scuola e mondo dell'impresa, università, scuola e mondo dell'impresa. Faccio notare che oggi veniva citato il caso virtuoso dell'azienda marchigiana Iguzzini, che è un colosso anche nel mondo dell'illuminazione, che è riuscita, mettendoci soldi e quindi anche mettendo soldi per i laboratori, a non far chiudere l'ITIS, l'Istituto Tecnico Industriale di Recanati, e portare da quello che rischiava di essere un numero di meno di 500 studenti, adesso sono più di 800. Quindi in questo senso, secondo me, è giusto che le imprese del territorio intervengano attivamente per mantenere la formazione, dare una mano alla formazione. Dopodiché, guardate che mi scrive adesso un meccanico industriale di Tortona, a 37 anni, si chiama Luca. Ogni mese ricevo proposte per lavori con stipendi da 1800-2000 euro, altro che 1200 euro. Evidentemente non tutte le proposte sono uguali. Andiamo però sulla borsa. Dunque, per se appena assunto 1200 euro sono pochi, chiedi cosa sanno fare per meritarseli. Sì, insomma. Allora, prima della crisi avevo uno stipendio di 3300 euro, adesso sono a 2000 euro senza benefit. È innegabile che vi sia stato... Che vi è stata una pressione sui salari, ma vale per tutti, non vale solo per chi va a fare l'operaio specializzato. Ecco perché dico, non capisco la polemica, visto il modo in cui vengono trattati avvocati, architetti, da studi anche di ricchissimi professionisti. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi, dopo una settimana in cui c'era quasi un caso al giorno, appunto Creval, Astaldi, e poi Leonardo Fimeccanica, la giornata mi sembra più tranquilla, meno 0,55% Milano, bene Ferrari più 1,70, Mediaset più 1, Moncler più 0,90, fronte opposto invece Leonardo meno 4,34, poi Telecom meno 3,20, Unipolsai meno 2,20. Ne parliamo dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. To let 17:51 minuti. Adesso stanno arrivando una marea di messaggi al 349-238-6666, sia come SMS che WhatsApp. Adesso non posso fare la puntata sugli stipendi dei tornitori e fresatori, ma mi scrive un altro ascoltatore da Treviso che dice: stipendio base qui 1800 euro. Ho capito, vabbè, non voglio citare casi biografici, ma quando io ho iniziato a fare giornalista dopo aver fatto l'università e il praticantato, non avendo un lavoro da dipendente, avevo un contratto tipo freelance, semi-freelance, prendevo 1.370.000 lire, me lo ricordo ancora, non è che fosse molto diverso da i 1.200-1.300 euro. Poi uno può ragionare sulle possibilità future, ma bisogna vedere anche quello che offrono gli altri. Se tutti gli altri lavori fossero cresciuti come salario e solo i tornitori e i fresatori fossero rimasti, gli operai specializzati al palo, avrebbe un senso questo ragionamento, ma se la pressione c'è stata su tutti i settori, su tutti i salari... Vabbè, comunque, Leonardo Micheli, dai, andiamo su. Leonardo, di nuovo in difficoltà, e oggi anche Telecom Italia. Sì, Leonardo, ricordiamo che venerdì scorso ha perso oltre il 21% e quest'oggi niente, le azioni non si sono affatto riprese, hanno perso oltre il 4% del proprio valore. Del resto ricordiamo che la società nei giorni scorsi ha pubblicato i conti dei primi 9 mesi, ma soprattutto ha fornito indicazioni per fine anno che sono state considerate dagli analisti deludenti, visto che sono state limate appunto le previsioni per l'intero 2017 rispetto alle indicazioni date in precedenza. E tutto ciò peraltro ha messo in ombra anche le nuove indiscrezioni su possibili nuove alleanze in arrivo dal fronte francese che potrebbero coinvolgere appunto Leonardo con Telse. Ha inoltre messo anche in ombra il fatto che la stessa società abbia annunciato di aver siglato con gli Emirati Arabi, con una società degli Emirati Arabi, un contratto per la fornitura di 2 elicotteri. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, ricordiamo che venerdì scorso la società ha dato i conti e soprattutto è stata la prima, diciamo, uscita di Genish, il nuovo amministratore delegato della società, che ha spiegato i conti del terzo trimestre, conti sostanzialmente in linea o forse leggermente inferiori alle attese. D'altra parte, proprio oggi è uscito uno studio di Goldman Sachs che ha messo nero su bianco i dubbi degli operatori e degli investitori, ossia che Telecom Italia si trova a fare i conti con sfide importanti sia sulla telefonia fissa, dove dovrà appunto vedersela con la concorrenza di Enel Open Fiber, sia sulla telefonia mobile, dove sta per entrare nel mercato la francese Iliad. E quindi da qui si sono scatenate le vendite, anche perché l'amministratore delegato venerdì scorso fondamentalmente non ha fornito indicazioni nuove, come ad esempio lo scorporo della rete, sulle quali probabilmente qualche investitore aveva anche scommesso. I titoli si sono portati su nuovi minimi a 0,68 euro. Allora, altri titoli invece, andiamo anche, a parte che do le principali variazioni: Unipol Sai meno 2,1, come Iux Santa Portella, 2% lo perde anche Unipol, l'1,80 è il calo di Fenecobanca e Ubibanca, l'1,5 quello di Brembo e Generali, l'1,20 Tenaris e Buzionice, mentre chi invece bene si è comportato, oltre a Ferrari e Mediaset, anche Moncler più 0,90, Biper più 0,90, Luxottica più 0,50%. Vorrei chiudere con te su Iux da un lato e nei migliori e peggiori ho visto muoversi bene Fiera Milano, Abitare, Fedon. Astaldi oggi recupera qualcosa del 3,90% e poi Fincantieri, quindi Iux e Fincantieri. Sì, allora, per quanto riguarda Iux, anche in questo caso i titoli della società continuano a perdere quota ormai da qualche giorno, esattamente dopo la pubblicazione delle vendite relative al terzo trimestre, che sono state considerate un po' deludenti dagli analisti, sebbene in verità l'azienda abbia messo a punto una crescita dei ricavi del 18,6%. Considerando a parità di perimetro, comunque del 13,8% in termini assoluti. E d'altra parte c'era appunto chi metteva in conto qualcosa in più, ma soprattutto è stata deludente, diciamo, l'indicazione per fine anno. Anche in questo caso si parla di una crescita consistente, d'altra parte la società ha indicato che la crescita sarà nella parte bassa del della forchetta precedentemente indicata tra, 17, sì. tra il 17 e il 20%, e quindi questo ha innescato un po' di prese di beneficio. La verità, Sebastiano, è che diciamo molti titoli e la stessa piazza affari hanno corso molto, e quindi da qualche giorno certo. sono scattate un po' di prese di beneficio. Poi è da vedere da qui a fine anno cosa succederà. Vabbè, non solo in questo caso. La Doria già è da vedere da qui a fine serata che cosa succederà all'Italia, figurati fine anno. Allora, la Doria meno 10, MNC meno 7,27, Banca Inter Mobiliare. Grazie intanto, Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso andiamo su GR24 e poi gli altri temi, i tributi locali, l'inchiesta del Sole 24 Ore schizzati in questi anni e i Paradise Papers. Allora, c'è un ascoltatore che avrà scritto, penso, una sessantina di messaggi su WhatsApp, tre al minuto nell'ultima mezz'ora, con questo tema: la crisi è stata inventata per levare i pochi diritti alle persone, che dillo, non mi rispondi mai così, dillo, che. Allora, io l'ho detto. Adesso però lei cambia pusher. Andiamo su GR24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ripeto, però non possiamo fare la puntata sui fresatori tornitori. Comunque mi scrivono altri imprenditori, dicono sì, 1200 in realtà è la paga base, attenzione che a noi costano 2400, questo è poi il problema del cuneo fiscale, in realtà un bravo tornitore fresatore parte da 1400 e oltre, a noi costa 2600 come famoso cuneo fiscale. E questa è una. L'altra invece riguarda moltissimi messaggi appunto sulla formazione, ma non posso leggerli tutti. Ripeto, faremo una puntata, la stiamo già organizzando, con qualcuno che ci racconti esattamente quali professionalità mancano alle imprese. Qualcun altro mi chiede: ma quando è che recuperiamo la classifica di venerdì scorso? Capita anche al sottoscritto di non esserci ogni tanto. Venerdì la recuperiamo, questo venerdì, e ce n'è da recuperare. Paradise Papers, lo facciamo dopo. È un nome molto esotico per dire chi va a portare i soldi all'estero, eh? Non sono spalloni, ci sono le palme, non sono le Alpi svizzere, ma sempre andiamo a parlare. No, prima di arrivare ai Paradise Papers, anche i legionari di Cristo, Vorrei parlare invece di quanto ha, tra virgolette, scoperto il Sole 24 Ore, ma insomma l'inchiesta del Sole 24 Ore. IRPEF locale, prelievi sulla casa sono al top della classifica, in questo caso dei rincari fiscali dal 2008 ad oggi. Allora, in 10 anni IMU e TASI sono aumentate del 91%, le addizionali IRPEF del 32%, le addizionali IRPEF sono quelle che mettono gli enti locali, poi ti chiedi se non si potrebbe risparmiare qualcosa. Io inviterei i vari amministratori locali a ascoltare, se hanno voglia, la classifica del venerdì. Modestamente in crescita anche le imposte sui giochi, più 34%, le accise sui carburanti ed energia più 15%, quelle non mancano mai. In calo invece IRAP meno 44% e IRES meno 35%. E poi il caso Tari. Diversi comuni hanno applicato il prelievo sui rifiuti in maniera scorretta, aumentando il carico per i contribuenti, con il caso di Roma, adesso vi dovete far capire cosa vuol dire sta cosa, dove ci sono le aliquote fantasma. Cioè, io tante cose avevo sentito, ma delle aliquote fantasma ancora no. Allora chiedo all'esorcista, allo stregone, Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Intanto, cosa sono le aliquote fantasma e poi qual è il caos che è scoppiato tra i diversi comuni che hanno applicato il prelievo sui rifiuti in maniera scorretta? Ho visto anche un intervento del governo, ha detto il sottosegretario dell'economia Baretta, su Tari non c'è nessun dolo, hanno sbagliato, ma senza dolo faremo delle verifiche, chiariremo entro 10 giorni gli errori sui garage e le cantine. Aiutaci tu Gianni. Buonasera, allora le aliquote fantasma sono quelle che si applicano ma non sono scritte da nessuna parte, è un caso che si può definire curioso ma si potrebbe definire anche peggio, anche perché non riguarda qualche piccolo comune, ma come dicevi tu, il comune di Roma. Cosa succede a Roma? Dal 2014 a oggi, ma anche più indietro in verità, sono approvate, pubblicate, bollate anche del Ministero delle delibere sulla Tari, che non riportano i parametri per le tariffe e le aliquote per calcolare la tariffa rifiuti sulle case. Sono precisissime su banche, supermercati, farmacie, e tutti gli altri esercizi commerciali, ma nulla dicono sulla casa. Al che legittimamente uno si domanda sulla base di quali parametri si paga la Tari a Roma, anche perché i lettori ci hanno mandato un po' di loro bollette e sulla base di questo noi abbiamo cercato nelle delibere se le bollette erano o non erano giuste, abbiamo capito perché le delibere appunto non riportano le aliquote, ma le bollette arrivate in redazione producono numeri diversi, in genere ovviamente più alti rispetto a quelli del calcolatore online dell'AMA, che è l'azienda municipale che gestisce i rifiuti a Roma. Naturalmente una delibera senza aliquote non è data, diciamo, no, ecco, perché la cosa strana è che appunto voi avete ricevuto lettere, però il caso non l'ha sollevato nessuno. Possiamo dire che quindi questa delibera senza aliquote non ha nessun livello di regolarità e quindi uno potrebbe non pagare la Tari o fare un ricorso? Diciamo che gli estremi per il contenzioso ci sono tutti, perché le delibere sulle tasse servono a indicare quanto devi pagare di tasse. Se tu non mi dai le aliquote, diciamo... Ma perché né l'ex sindaco Marino né l'attuale sindaco Raggi hanno fatto la delibera? No, le delibere le hanno fatte, sono anche lunghe. Cioè, le aliquote per la casa dentro le delibere, prego. Ecco, questo è un bel problema, nel senso che naturalmente lascia un'alea per l'applicazione, probabilmente, come dire, ereditata da anni precedenti, e lì c'è un bel mix di irregolarità, sciatteria amministrativa e altro. Ma ecco, parliamo anche di sciatteria amministrativa. No, ma io capisco benissimo che non è che le giunte precedenti Alemanno e si va indietro abbiano brillato, anzi. Però non è che si può ogni volta continuare a dire ma c'era anche la giunta Marino, e Marino dice c'era la giunta Alemanno, e Alemanno dice, cioè, se no non tagliamo mai la testa al toro. A un certo momento, che Roma sia stata amministrata male lo sanno anche i Sassi, anche prima dell'arrivo del sindaco Raggi, così placo le eventuali critiche, ma attenzione, non basta dire c'erano altri sindaci, trovate una soluzione, perché io non ho ancora visto una delibera in cui si vengono dimenticate le aliquote da applicare alle utenze domestiche, a meno che tutti non abitino a Roma solo negli uffici e dormono direttamente negli uffici. Prego. Ma infatti devo dire che è la prima volta che capita anche a noi. Noi abbiamo sottoposto il caso ai tecnici tributaristi e fiscalisti e così via, ma non c'è una risposta, nel senso che è qualcosa di francamente incredibile, come francamente incredibile è anche il fatto che il Ministero dell'Economia, che ha il compito di ricevere, esaminare e pubblicare, e le ritiene valide, le delibere comunali, non abbia avuto nulla da eccepire rispetto a questo piccolo dettaglio, diciamo così, cioè il cuore delle delibere Tari, ripeto, del 2014, del 15, del 16 e anche del 17. E qui ci ricolleghiamo a dove ci eravamo lasciati con il push dell'ascoltatore, perché temo che abbia clienti anche tra il comune, tra gli uffici amministrativi del Comune di Roma e il Ministero, perché come cavolo fai a non accorgerti che nel 2014, 2015, 2016, 2017 nella delibera sulla Tari mancano le aliquote per le utenze domestiche? Io capisco, tu fossi un paesino dove ci sono 4 abitanti e tutto il resto uffici, vabbè. Il resto della lite invece, che vede coinvolte anche città grandi, grandissime come Milano, Genova, Ancona, Napoli, Catanzaro e Cagliari, su che cosa verte? Barretta ha detto non c'è nessun dolo, però faremo verifiche. Sì, ha ragione Barretta, con tutta probabilità non c'è nessun dolo, perché come sempre le norme di riferimento sono scritte come sono scritte. La lite verte sul fatto che in pratica la quota variabile della Tari, che serve a parametrare la tariffa sulla base di quanti rifiuti produci, quindi se sei una famiglia di 2 persone è più bassa, se sei una famiglia di 6 persone è più alta e così via, veniva applicata non solo alla casa, ma veniva ripetuta per il garage, per la cantina, per le altre pertinenze. La cosa è del tutto illegittima, perché i rifiuti una famiglia di quattro persone produce sostanzialmente gli stessi rifiuti, sia che abbia il garage, sia che non ce l'abbia, e quindi bisogna attivare le restituzioni, le richieste di rimborso. Il Ministero nei prossimi giorni farà una sorta di linea guida, diciamo così, in cui non potrà fare altro che ripetere le regole. Il sindaco di Milano Sala ha già detto che è disponibile a rimborsare le cifre pagate in eccesso, ma in tutti i comuni si stanno svolgendo verifiche, perché il problema non riguarda tutti i comuni, riguarda un po' di comuni, alcune centinaia. Si stanno svolgendo verifiche e se è il caso ci saranno da attivare i meccanismi di rimborso anche degli arretrati, perché si può andare indietro nei tributi locali fino a 5 anni. Fino a 5 anni. Nel caso specifico della Tari gli anni sono in genere 4, perché prima c'era la Tarsu, che era un'altra tariffa sui rifiuti, che però non presentava questo problema per una questione tecnica di risparmio. Comunque dal 2013-2014 tutti i comuni applicano la Tari e chi la applica male deve restituire l'arretrato. Grazie, grazie anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Avevo promesso prima di andare sul traffico di far ascoltare, perché devo un po' risollevarmi, un esempio virtuoso, però a questo punto lo facciamo dopo il traffico, cioè i dati di oggi sull'andamento dei visitatori nei nostri musei prima di arrivare appunto ai Panama e Dagela con questi Panama Papers, ai Paradise Papers. Non so perché mi viene in mente Panama quando penso a un paradiso. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti di nuovo in diretta. Allora, prima di arrivare ai Paradise Papers, i musei italiani, una buona notizia. Ogni tanto anche sul fronte dell'industria culturale italiana, dal 2013 al 2016 aumentati gli incassi di 50 milioni di euro, che comunque è una buona cosa. E i visitatori passati da 38 milioni e mezzo del 2013 ai 45 e mezzo, più 19%. Si punta a raggiungere i 50 milioni di visitatori quest'anno. Non sarà tutto merito del direttore di museo, ci mancherebbe, ma siccome ci furono molte polemiche quando il governo scelse i direttori anche all'estero, cosa invece com'è buona e giusta, si compete, i migliori vincono la gara, molti sono italiani. Sentiamo su questo al microfono del nostro Andrea Viali, prima il ministro Dario Franceschini e poi il direttore mitico della, mitico perché è uno che come è arrivato gli hanno fatto una guerra ai sindacati indegna, che finì anche nella nostra classifica perché alla Reggia di Caserta invece che fare la guerra al direttore perché lavorava fino a tardi, bisognava andare a capire perché ci fossero dei privati cittadini che da sempre abitavano, in quanto ex custodi o con qualche altro grado di parentela, abitavano dentro la Reggia di Caserta, una roba che non è mai vista. Però Franceschini prima e il direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori sempre al microfono del nostro Andrea Viali. Veramente un bilancio entusiasmante, sono poco più di 2 anni che i direttori, 20 direttori lavorano, italiani e non italiani, hanno cambiato il volto dei loro musei, hanno legato i musei alle città, non soltanto ai turisti, sono cresciute le attività scientifiche, i restauri, lo Stato ha investito circa 1 miliardo di euro per gli interventi nei musei e soprattutto sono aumentati tantissimo i visitatori, in controtendenza rispetto a quello che è successo in Europa. Quest'anno sfioreremo i 50 milioni, essendo partiti da 38 milioni solo nei musei dello Stato, nei parchi archeologici dello Stato, quindi è un investimento, è appena all'inizio di un cammino, ma è la prova che investendo in cultura si fa del bene alle persone, alle menti, alle anime, ma si fa anche molto bene all'economia delle nostre città. La riforma Franceschini è stata una rivoluzione, se ne parlerà ancora fra un secolo. Naturalmente è una rivoluzione che si è fermata alla soglia delle questioni del personale. Noi non abbiamo, il personale resta un personale statale, come se fosse prestato ai musei autonomi, no? E tutte le normative sul pubblico impiego non sono normative che permettono una gestione efficiente della pubblica amministrazione. Questo lo sanno tutti. Però non è che è inutile dare la colpa ai sindacati, quei contratti lì, non è che i sindacati se li sono firmati fra loro, no? Sono figli di una lunga stagione di concertazione. Insomma, poi io non voglio neanche giudicare il passato. Ci sono stati anche dei momenti in cui andava bene fare così. Adesso no, ecco, adesso le normative sul pubblico impiego, questo fatto per esempio che una persona per spostarsi da un museo all'altro o lo decide il dipendente stesso o non lo si può spostare. È chiaro che un sistema aziendale non può funzionare così, no? Allora, i Paradise Papers, qui la nota è meno positiva, però Angelo Mincuzzi, aggiornaci tu, perché avevamo promesso una puntata quasi a settimana, domenica scorsa, cioè non ieri, ma una settimana fa uscì la prima lista, Bono Vox, Madonna, la Regina Elisabetta, dicemmo domenica inizieranno ad arrivare dal circuito internazionale dell'Investigative Journalist. Alcuni nomi degli italiani, i nomi degli italiani sono usciti, devo dire, a parte gli eredi di Nino Rovelli, i legionari di Cristo, che non ho capito che cosa ci facessero nei Paradise Paper, c'è il nome del finanziere Bonomi, quello Andrea Bonomi, e poi la vicenda della Vetro Ciset. Allora, ricordiamo che non c'è nulla di illegale, poi per me è anche l'opportunità, ma sulla Vetro Ciset, se puoi chiosare, siccome il ministro Pinotti ha detto sono disposto anche a usare la Golden Power, perché la Vetro Ciset si occupa di manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi elettronici per il controllo del traffico aereo e per la difesa, quindi ha un ruolo strategico, proprio oggi, quando la Pinotti ha detto che questa azienda, che ha una catena di controllo allucinante che finisce appunto nei Caraibi, e partecipata anche da Leonardo Finmeccanica, che ha un ruolo cruciale, oggi il gruppo Vetro Ciset è passato di mano il 98,5% all'imprenditore Di Murro, Tonino Di Murro, titolare del 51% della FIGI Tecnopolo Holding di Roma. Ammetto la mia ignoranza, non lo conoscevo. E allora, i nomi e la Vetro Ciset. Allora, sui nomi diciamo che abbiamo una prima tranche, sono i nomi che hai detto, il più interessante sicuramente è quello di Andrea Bonomi, che è l'ultimo discendente di una gloriosa famiglia di finanzieri milanesi, e anche qui è fatto bene a precisare che non c'è nulla di illegale, nel senso che si è scoperto che il gruppo Investing Europe è controllato da alcuni trust che hanno sede nell'isola di Jersey, ma appunto non c'è niente di illegale. La notizia, diciamo, più ultima che è arrivata riguarda la Vetro Ciset, che, come dicevi tu, è un'azienda strategica perché si occupa della manutenzione del traffico aereo, delle linee dati della polizia e della Banca d'Italia, tra le altre cose. Insomma, è attiva in settori che sono molto delicati. Cos'è successo? Che la famiglia Crociani, che controllava... Con la O, perché stiamo... Con la O, certamente. No, perché... Crociani, che controllava a questo punto Vetro Ciset dall'anno della sua fondazione, cioè tantissimi anni fa, ha venduto questa società. Ma chi l'ha venduta? L'ha venduta un imprenditore di cui si conosce davvero poco. E infatti siamo tutti impegnati a cercare di capire chi è Antonio Di Murro. E chi è Antonio Di Murro? Chi è Antonio Di Murro? È il presidente di una società che, guardando dalle visure, ha un solo dipendente. Ha una società collegata a Malta. E poi non si sa nient'altro. Però si è comprato il 98,5% della Vetro Ciset oggi, che nel giorno in cui il ministro Pinotti dice attenzione, potremmo mettere il Golden Power, perché ha una rilevanza strategica sulla difesa e la parte civile e militare. Sembrerebbe che abbia fatto bingo, perché comunque Vitro Ciset è una società, sebbene negli ultimi anni abbia avuto, come dire, un andamento non così performante come negli anni precedenti, è comunque una bella società. È una bella società, e quindi bisogna adesso capire, visto che il governo può esercitare il golden power, cioè il suo diritto, come dire, di veto anche su questa operazione, capire chi è Antonio Di Muro e chi rappresenta. Oppure o lui o il dipendente, interrogate il dipendente, visto che essendo un dipendente solo si parleranno abbastanza, immagino. No? Andremo a caccia del dipendente. Allora, tu ci terrai aggiornato invece, mi scrive un ascoltatore, se non ci sono i legionari di Cristo nel paradiso dei papers, no, non è il paradiso dei papers, è il paradise paper, un po' diverso. Comunque, Angelo Mincuzzi, tu ci terrai aggiornato nelle prossime settimane, man mano che usciranno i nomi. Grazie anche al collega del Sole 24 Ore, in bocca al lupo all'Italia, forza azzurri questa sera, anche se arrivare così in parte è già una sconfitta, ma intanto portiamo a casa la qualificazione mondiale. Sperem, noi ci risentiamo comunque domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.